sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 passate da 3 minuti in questo preciso istante. Buonasera da Agostino. Sì, sì, non vi sbagliate, oggi è martedì e io sono qui in diretta con... Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, oggi è martedì e tu sei in diretta con me. Non è giovedì, non è martedì. È tutto in diretta, comunque, assolutamente. Comunque questa è sempre la fascia oraria chiamata Blu Radio Sera, che va in onda tutte le sere dalle 21 alle 22.30. Questa è la vostra emittente, come piace dire sottoscritto, Blu Radio Veneto, le nostre frequenze. Ve le ricordo sempre per l'ennesima volta, 88.794.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo anche i nostri siti, quello semplicemente della nostra emittente, cioè www.bluradioveneto.it. troverete tutte le informazioni necessarie inerenti soprattutto alla nostra cara amata regione, cioè il Veneto, ma anche recensioni, live, eccetera, di tutto e di più, anche sulla musica e anche altri avvenimenti, ovviamente. Poi vi ricordo le nostre pagine su Facebook, che sono semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che salutiamo. Allora, vi ricordo anche i numeri telefonici, allora, perché prima di presentare questo artista di questa sera, vi ricordo quello in studio, è lo 049 875 6423. Mentre per quanto riguarda gli sms, vi ricordo, se volete interagire con noi, con questo artista, se volete mandare qualche domanda, qualcosa, lui è disponibilissimo a rispondervi, a farvi conoscere ancora un po' di più la sua musica. Vi ricordo, dicevo, il numero per gli sms è il 346 23 20 033. Chi abbiamo stasera? Abbiamo un toscano che vive in Olanda, che si chiama Dimitri Nicolai, ma in arte abbiamo Tenedley. Ciao Tenedley. Buonasera, buonasera a tutti, salve. Ciao e benvenuto a Blu Radio Veneto. Buonasera Tenedley. Grazie, salve. Gran Cassa è il tuo ultimo disco, quarto album. La critica ha scritto che tu sei un cantautore visionario, nel senso positivo del termine. Perché secondo te? Perché forse riesco a mettere in musica... C'è qualcosa che fischia? Ecco, sì, esatto. Adesso non fischia più. Vai, vai, vai. È una visione audio. Niente, forse riesco a mettere in musica le mie visioni, dei piccoli film che ho in testa. E è un soprannome che mi è stato dato e che adotto molto volentieri. Vediamo un po'. Ma è da cosa? Una visione, dicevi? Sì. Non sai bene. No, io in effetti vedo, ogni mia produzione è un piccolo film, ogni mia canzone è una visione. Tra l'altro la multimedialità nel mio lavoro è diventata una routine e niente, quindi il mio lavoro è fatto di visioni, prevalentemente. E tu non sei solo un cantautore, sei performance, ti interessi di teatro, ti interessi di cinema, fai documentari, fai un po' di tutto, sei un artista a 360 gradi, possiamo dire questo? Diciamolo, anche se parte ovviamente sempre tutto dalla parte dalla musica, musica. Assolutamente esatto, dalla musica. La musica appunto mi dà le visioni, mi dà i colori, i sapori e quindi niente... Già la musica in sé mi fa vedere il film ad occhi chiusi. Ecco, dopo, ti fai vedere il dopo, film ad occhi chiusi. Niente, io sono appassionatissimo di cinema, leggo, mi piace leggere, mi piace scrivere, mi piace disegnare, mi piace dipingere, mi piace fotografare. Nella vita ci sono tantissimi piaceri di cui non mi voglio privare e attraverso la musica ho la possibilità di miscelarli e di riproporli. Ecco, poi con quali risultati vediamo, ma... punto sulla musica come treno e i vagoni sono il resto, diciamo. Ti piace cercare allora? Mi piace cercare. Ti piace cercare, scoprire, cercare di vedere, di allargare, di trovare, sì, di scogitare. Sì, sì, anche se appunto la curiosità fino a qualche anno fa era quella di cercare fuori. Ora sono talmente staccano vista che la ricerca la faccio su me stesso, quindi appunto la fotografia, le immagini e il resto è un'evoluzione continua su quello che faccio. Ecco. Quanto dura la tua giornata che sei così staccanovista? Esatto, quando ho sistemato i miei figli nelle scuole dura abbastanza, sì sì. Spesso lavoro di notte, prima era una necessità perché i bambini erano piccoli, a livello compositivo ovviamente, certo, certo. Di creativo. Però ora vivo in Olanda, appunto, un paese molto tranquillo e silenzioso, quindi ho la possibilità di lavorare con estremo tempo, tempi certo. lunghi, e quindi Vado piano, ma le giornate durano abbastanza. Poi di sera si lavora sempre bene, comunque, di notte soprattutto. Sì, sì, sì. Sì, c'è questa quest'aria che si posa sul mondo, questa pace che insomma è il tuo momento, insomma, dai. Sì, sì, sì, spesso sì. Quel gruppo che avevi, gruppo fiorentino, gruppo toscano, sì, di elettropop, c'era tanta pace già all'epoca oppure no? Paradossalmente noi cercavamo una strada. E come si chiamava il gruppo? Dai. Il Laughing Silence. All'inizio Laughing Silence, poi cambiammo nome gli ultimi due anni, ma ormai eravamo già così soprannominati. Quindi sì, facevamo musica elettronica. Mm. Elettronica, la New Wave, che è proprio la musica dei miei 16 anni. E niente, a Firenze in quel periodo si suonava molto, c'era molto interesse, quindi abbiamo avuto la possibilità di fare cose, di suonare molto e di realizzare un paio di demo che a differenza di altri gruppi ci vedevano stare in cantina, cioè proprio nel garage a provare tecniche di registrazione, anche sperimentare suoni. Avevamo violino, tromba, però io suonavo anche la chitarra, però molti sintetizzatori, campionatori, quindi è stata la prima palestra, ecco, e sperimentavamo un genere che in Italia, sì, c'erano un paio di gruppi, tre che si cominciavano ad affermare, ma non era molto utilizzato. E spesso ci è capitato di vincere concorsi proprio perché non sapevano dove metterci, ci mettevano in coda alle serate heavy metal, evidentemente... con tutto il rispetto per le rimette, il fatto buoni, e alla fine arrivavamo noi che pulivamo un po' le orecchie e allora le giurie ci davano premi, insomma. Sì, ma la musica che facevi, cioè l'elettronica che facevi, secondo me, Grancassa è il tuo ultimo disco, ma la tua è un'elettronica non fredda, è quello il discorso, non fredda, ha un'anima. Esatto, no, questo mi fa molto piacere sentirlo dire perché è una mia piccola battaglia. A parte io trovo... Anche i Kraftwerk, non li trovo assolutamente freddi, però ovviamente si pensa all'elettronica come una musica fatta soltanto di sintetizzatori e di cose e di macchine. L'elettronica ovviamente oggigiorno è anche il campionamento del suono, è quasi tutto elettronico, dal momento in cui si registra una voce in digitale, in teoria non è più elettronica. Quindi io adotto una tecnica che cerco di far sfociare in una musica elettronica calda, cioè avvolgente, comunque non in funzione della canzone, un vestito, ecco, partendo dall'attualità proiettata verso il futuro. Diciamo che se l'elettronica fredda ce n'è stata fatta, quindi ce ne sarà ancora sicuramente. Sì, però... ma va bene. Tra l'altro a me piace anche ovviamente si sente dai miei dischi che c'è una commistione di canzone d'autore e di musica elettronica o musica acustica, però ecco, mi piace, l'atmosfera è fondamentale. Esattamente, primo disco che aveva un nome incomprensibile, cioè incomprensibile, non si poteva pronunciare per un povero DJ, puoi pronunciare te. No, ma era proprio una scelta, a me piace, ho cominciato subito col difficile, si chiamava Psych Freak Blues Bus. Del 2003 questo. Che in teoria era un concept album, parlava di, l'ambientazione era un autobus volante, che raccoglieva sognatori e li portava tra le nuvole. I fricattoni, nel senso positivo. Psichedelico, certo. I fricattoni, le persone strane. Esatto. Blues, non c'era tanto blues, ma insomma, è il bus che era il volante. È quello, certo. E fu strano perché io pensavo a un titolo, misi insieme queste parole e dissi, no, ma non posso chiamare un disco così. E poi dissi, ma perché no? Certo. Le cose non ci sono e poi ci sono. Basta, forse perché è proprio così difficile da pronunciare che forse ti resta più in mente. Sì, ma infatti ci vuole un attimino di pazienza per pronunciarlo, però suona benissimo. Sì, sì. Psych Freak Blues. Infatti ho provato prima a leggerlo. No, esatto. Adesso, Tened, non abbiamo pazienza e possiamo cominciare a sentire la tua musica. Assolutamente. Che cosa ci fai sentire? Allora, iniziamo con un brano dall'album. Dal nuovo album, Gran Cancassa. È lo stato in cui mi cerco. Perfetto. Thank you. però il mondo che gira con me e i piedi non sento più. Ho viaggiato a bordo di ogni mezzo assurdo, da nord, ovest, est a sud. Questo non è lo stato in cui mi cerco. Anche se ancora non rinuncio al sogno, ed ogni incontro mi apre una via diversa e possibile, come un pellegrino assetato di vino. Forse non c'è lo stato in cui mi cerco. Anche se ancora non rinuncio al sogno, puoi nasconderti, travestirti, fare la peste, ma la realtà sa chi sei. C'è un viandante che viaggia con me, mi segue e non parla mai. Lui sa cos'è lo stato in cui mi cerco. È accanto a me per riportarmi a casa. Puoi nasconderti, travestirti, fare la peste, ma la realtà sa chi sei. Lui sa cos'è lo stato in cui mi cerco. È accanto a me per riportarmi a casa. Puoi nasconderti, travestirti, fare la peste, lui sa chi sei. Ok, benissimo, bellissima come sempre dal punto di vista acustico. Grazie. Proprio acustica al 100%, l'hai proprio scremata, esatto, giustamente, esatto. Beh, l'acustica è questa, la dota, sì, dell'acustico. Sì, ecco. Sì, ma infatti alla fine la musica parte da due cose, il canto, ovviamente si parla di canzoni, il canto, la parola e poi il primo accompagnamento, quindi se c'è sostanza in genere si riesce a ritornare alla fonte. Esattamente, difatti su questo discorso che tu hai fatto, il Corriere Fiorentino del 6 marzo del 2011 ti ha fatto una recensione ottimale, diceva: per chi ama trovare la musica elettronica, ma chi ama anche trovare la canzone d'autore. Quindi il connubio è perfetto e il tuo animo è questo qua, la canzone d'autore e anche la musica elettronica, i beat e la canzone d'autore. Questo è importante. Sì, sì, sì, è quello che tento di fare. Io ho questi due. L'ascolto della musica, non riesco a rinunciare alle due cose, ecco. La tradizione nostra, la parola, mi interessa la parola, mi interessa la melodia, però provo a sviluppare un discorso di suono, di ambiente che non sia in competizione con la canzone d'autore classica, perché anche ora ci sono amici, tra l'altro, che fanno musiche bellissime, acustiche, però provo a dargli un vestito diverso. L'essere in Olanda ti ha favorito la ricerca dei silenzi, di queste prospettive, sì, grandi, sì, sì, di, esatto, questa pace per costruire, ma poi però c'è sempre l'anima cantautorale che viene fuori. Sì, sì, sì, no, ma quello voglio dire, i cantautori non sono una categoria ristretta, basta vedere Bindi o certo. Battiato certo. O Tricarico. Hai citato Battiato, hai detto sì, una cosa esatto, giusta. Battiato ha questa sperimentazione tra il cantautorato. Esatto, fatto. Non ho citato a persone caso. A caso. Battiato, penso che dopo Battisti, che ha dato la prima svolta al cantautorato, diciamo, degli anni 50. Cioè, certo. Prima Tenco, poi Battisti ha dato la prima svolta verso il rock and roll, il blues. Giusto. Poi Battiato ha fatto una cosa molto molto particolare nel cantautorato, ha introdotto appunto la sperimentazione e ovviamente un modo di cantare apparentemente inizialmente più leggero, no? Quando esatto. faceva Cucurù Cucù Paloma. E niente, quindi dando un pochino più importanza inizialmente alla musica, all'arrangiamento, alle situazioni sperimentali. È stato un maestro per tanti della mia generazione. La voce del padrone è uno dei dischi esatto, più, esatto, è sì, uno sì, dei sì. dischi più belli della storia della musica italiana. Sì, sì. E poi ovviamente finché quando la musica faceva cultura, ad ogni disco era legato una lettura, ad ogni canzone una poesia, una citazione, quindi andavi a prenderti letture. Il cantautorato è anche questo. Lo è tutta la musica, anche la musica strumentale, ovviamente gli spunti sono molteplici. Io in Olanda ho trovato è la prima volta che compongo un disco, ovviamente sono tornato in Olanda 4 anni fa, ed ho trovato una pace, un silenzio, una lontananza dalle persone care, anche se là ne ho altre care, certo. che mi ha posto davanti appunto tanto spazio, tanto orizzonte. E infatti l'orizzonte e l'infinito sono due parole che utilizzo nel brano La spiaggia, perché appunto mi sono confrontato con queste due situazioni. Oltretutto l'Olanda è un paese sì, piatto, certo. quindi vedi molto lontano. Certamente. È nato Grancassa. Ma Grancassa è nato proprio per quello, anche su questi presupposti, su sì, questi input. Sì, sì. Esatto, esatto. La solitudine, la riflessione, anche se poi il titolo è evocativo alla sì, rovescia. Del rumore. Del rumore, sì, esatto, della banda, eccetera. Il disco stesso è molto... Non manca... Non c'è una canzone senza batteria elettronica, però... al contrario, in contrasto, i temi sono quelli dello spazio, della riflessione e della solitudine, ecco, anche tra due persone, tra amici, tra la gente, l'utilizzo della tecnologia che ci allontana dai rapporti umani. Ecco. Io non soffro di questa cosa personalmente, però ho avuto modo da lontano, segui molto di più le cose sul web, certo. e vedi anche la gente, insomma, il fenomeno appunto di cui ho parlato, i Kikomori, eccetera, insomma, ora, se non mi dilungo troppo, però sì, l'ambiente ha influito molto sul tipo di disco che ho fatto. Io direi di ascoltare qualcosa dal disco adesso. Sì. Cosa dici? O vuoi suonare ancora dal vivo? Volentieri, facciamo come vuoi. Disco, dimmi tra tu. L'altro, se ascoltiamo Sta accadendo, è proprio il brano che rappresenta... in pieno. Ecco, fermiamoci un momento, visto che noi vogliamo parlare un attimo. Sì, ne parliamo un momento. Facciamo ascoltare quella, la facciamo sentire. Perché questo pezzo, grazie anche al nostro direttore artistico che è Alberto, che è qua presente anche lui, l'abbiamo scelto come brano per far sentire il tuo disco. Io l'ho messo su 2 mesi consecutivi, che mi piaceva particolarmente, mi è entrato dentro e dà quella espressione. Scritto in un momento, in un silenzio forse, in una zona, cioè in un momento anche ambientale importante, e l'hai creato. Innanzitutto fondamentale perché c'è una voce femminile che dà la colorazione al pezzo. Sì, sì, sì. A me fa molto piacere che tu abbiate scelto questo brano, perché è proprio il fulcro del disco. Sta accadendo e poi il testo, ovviamente, ciò che sento e che vedo sta accadendo, è proprio... la concentrazione sulle cose che stanno accadendo invece della distrazione, di farne mille senza guardare quello che ti gira intorno, le persone vicine. Il brano è molto, come sentirete, molto, molto silenzioso, molto arioso, e il fatto che Vanessa Tagliabue abbia partecipato a questo brano per me è un motivo di grandissimo orgoglio. Io l'ho trovata e lei mi ha fatto questo regalo. E avevo la necessità di far partecipare voci femminili perché il disco si incentra molto anche sul rapporto tra uomo-donna, appunto tra due universi apparentemente diversi. È un brano che è molto personale. Quando suono dal vivo ci sono delle immagini che io ho ripreso in una spiaggia con la mia moglie e i miei bambini, quindi è una cosa anche abbastanza personale. Che ti entra dentro praticamente. Sì, sì, sì, è una nostalgia che io provo nel momento in cui le cose si... delle cose che stanno accadendo. Oh, perfetto. Perché le voglio fermare. Certo, certo. L'ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre in diretta qui a Blu Radio Veneto con Maurizio Calzavara e con il sottoscritto alla regia per cercare di conoscere un po' di più questo nuovo amico di questa emittente, cioè Tenedre. Prima però parlavo di amici, ne approfittiamo Maurizio per salutare invece certo. un carissimo amico di questa emittente che ci è venuto a trovare qualche tempo fa, è sempre rimasto in contatto con noi e ci vuole un bene nell'anima, lo salutiamo caramente. Ciao Davide Tosques, un cantante di cantautore di Torino. Carissimo, sì, sì. Ci sta ascoltando. Ho il suo disco meraviglioso, ecco. Precedente, e so che è al lavoro con un nuovo, lavoro, quindi verrà, aspettiamo verrà. A gloria. Verrà. Ciao Davide. Ciao Davide, grazie della, facci sapere che sei in ascolto. Ritorniamo a questo pezzo, Tenedle, un pezzo molto bello per una cantante che fa blues, che si è inserita perfettamente in una tematica, una ballad, possiamo dire, una ballad romantica, sì, sì, un sì. po' triste. Sì, sì, malinconica. Malinconica. Ma tutto sommato potrebbe essere anche un blues. Anche un blues, anche esatto. se non ha proprio gli stessi. Come gli l'hai, stessi come l'hai scovata questa ragazza bravissima? Niente, io in genere sono molto. Si parla tanto di voci che emozionano, io non ne trovo molte. Ero su in Olanda e cercavo qualcosa, ma non so se cercassi, sono sempre molto curioso, quindi cercavo un po' di musica. E improvvisamente mi sono imbattuto nelle sue versioni del blues primordiale, lei ha un repertorio molto bello, però completamente diverso da quello che fu io. Scusate il mio toscano. Ma è bello il toscano, è bello il toscano. Quando torno... non sei il primo che capita. Devo recuperarlo. quello che fu io. Insomma, niente, io rimasi folgorato da questa voce e dissi, ma... No, non dissi, io ho sognato per due notti la sua voce su Sta Accadendo e poi ho detto ma io la devo chiamare, devo contattarla perché sarebbe una cosa meravigliosa. Niente, Vanessa ha accettato, ha cantato sto pezzo ovviamente oltre le mie aspettative perché lo sentite insomma e quindi un regalo bellissimo e, insomma effettivamente ogni volta che l'ascolto ci sono io che non ascolto molto la mia musica queste cose le ascolto volentieri proprio grazie a loro. Sì, perché ti ha proprio trasportato letteralmente nel pezzo, ti ha guidato secondo me. Sì, sì, sì. Poi di più, lei mi ha mandato una versione dove lo canta tutto lei. Ah. E ovviamente non era l'idea del disco, però vi assicuro che c'è stato il vero imbarazzo della scelta lei l'ha fatto suo. Perché è una grande artista, è un po' pazzerella, ma è una grande artista. Abbiamo fatto un concerto insieme ad Amsterdam ed ha raccolto un sacco di applausi. Quindi cioè, ma lei è molto conosciuta lì in Olanda? No, in Olanda non è conosciuta, è italiana, di Seregno. È di Seregno, lei insegna, canta in alcune band, big band. E io spero che anche grazie a questo contributo possa avere... La salutiamo se magari ci sta ascoltando. Sì, sì. Ciao Vanessa. Vanessa, ciao, un bacio. L'utilizzo delle voci femminili, sì. Il perché in questo disco? La prima frase del disco dice «Io e te dentro siamo due isole, fuori il mare è nero». La solitudine e questo mare nero tra ognuno di noi. Di battestiana memoria, possiamo dire. Sì, sì, sì. Certamente. Esatto, le citazioni. Questo mare nero e queste isole hanno molto a che vedere anche con gli universi maschili e femminili. E quindi per rappresentare anche proprio come suono questa cosa, mi sono avvalso delle voci femminili. Queste meravigliose persone più che altro certo, e poi grandissimi cantanti. Adesso però ascoltiamo lui che canta. E certo. Ok. Cosa ci fai ascoltare adesso? Facciamo Maledizione, che è un brano che sul disco, anche lì è in duetto con Silvia Vavolo, altra vostra conoscenza, certo, credo. Certo. E Maledizione. Guardami, non è facile Il verme che ho dentro vorrebbe ballare con te. Ma stasera che ho in mente i miei passi, tu non mi vuoi. E io lo so, ti parlano. La strega cattiva vorrebbe battarti sul cuore. Tu insegnami cose da dire e io parlerò. Via questa luce, si accendono i miei sogni, tutto il resto tace. Riposa in pace, gli anni passano come nuvole nere. Il cielo che fuori diventa ogni giorno più buio, mentre il cielo che dentro ti aspetta ed è blu, blu, blu. E guardami, sono esanime. Sei il vampiro che beve ogni mia illusione. Non so farmene più una ragione. E salva me. Le stelle ora brillano. Messe dove volevi tu, ho solo una luna da dividere, ma che vuoi di più? Blues. Il blues, il blues, c'è poco da fare, il blues. Alla fine c'è, pure me ne ero accorto. No, questo è un pezzo assolutamente blues. Sì, sì, sì, è vero, è vero. Infatti anche il testo ovviamente si è ridotto a un rapporto proprio, andando a tradurli i testi dei primi bluesmen, parlano certo proprio di questo amore non ricorrisposto, insomma, questo bruciore. Come nascono le tue canzoni, Tenedle? Allora, innanzitutto nascono degli scarabocchi su quaderni neri con fogli bianchi che ho trovato proprio in Olanda, ormai da 15 anni li colleziono, me li compro bianchi col senno di poi. E io scrivo continuamente scene che vedo in giro, perché proprio l'ispirazione letteraria io scrivo molto sulle nostre contraddizioni, ecco, vedo gente correre, vedo situazioni strane e quindi comincio a riempire foglietti e poi attaccarli su questi quaderni. Dopodiché nasce, a parte la ginnastica che uno fa scrivendo ogni tanto alla chitarra, che a volte può venire buono, però nasce, a un certo punto esistono, c'è qualche dei fluidi che arrivano e ti dicono ecco il disco, ma non c'è nulla ancora. È proprio una situazione chimica che ti dice è l'ora di scrivere. Ovviamente io scrivo anche per altri contesti, però i miei lavori, ecco, a un certo punto ho riempito la mia testa in un periodo di talmente tante cose che ho bisogno, che sento l'impulso. Allora in genere mi metto a scrivere, mi prendo il tempo ovviamente e in genere in due o tre mesi io proprio butto giù la musica, e la musica è anche il suono, io scrivo in contemporanea, e in questo contesto ci può essere il pezzo fatto al pianoforte come il loop fatto e messo in attesa, loop che ti fa pensare a una situazione strana. Questo mucchio di brani, che in genere sono una ventina, cominciano a farti vedere un film. A quel punto capisci se stai dicendo qualcosa, torni perché io in genere finisco una parte strumentale dove le melodie cominciano a entrarmi in testa lentamente. Se mi rimangono in testa senza scriverle, spesso vuol dire che sono belle. È strano, è un processo un po' particolare, però la musica c'è sempre prima, stranamente, come se io lasciassi posare le musiche in e attesa poi fai della... i testi. Esatto, quasi, spesso ho delle crisi profonde quando devo scrivere i testi, non perché mi manchino le idee, ma perché la musica deve fare un'unica cosa. Strumentale è evocativa, perché certo, la stessa musica a tre persone diverse potrebbe suggerire tre argomenti diversi. Certo. Ed è bellissimo lasciarla così a volte, quindi devo fare proprio un lavoro di cosa parlo in questa canzone in particolare. Ovviamente io ho argomenti, cioè almeno penso di averne, e via via cerco di non sacrificare la musica a un argomento troppo preciso, ecco, quindi cerco di lasciare comunque spazio. E di cosa parli nella prossima canzone che ci fai dal vivo? Ecco, sì, tra l'altro il prossimo brano che vi faccio sentire fa parte della mia esperienza teatrale. Facemmo ad Amsterdam qualche anno fa la rappresentazione, tra l'altro, di Stefano Benni della Signorina Papillon, in cui io interpretavo il ruolo di un pappagallo che nel libro è morto. L'idea geniale del regista fu di farmi scrivere le canzoni e di farmi essere un pappagallo animato ogni volta che la scena si riferiva a me. E in quel periodo il brano lo trovo, il pezzo teatrale secondo me è ironico, come fa Benny, ma di una poesia estrema. In quel periodo avevo ritrovato una figura per me importantissima, che è il poeta scrittore Giuliano Scabia. Tra l'altro credo che sia nato o a Padova vive in Toscana, insegnante del DAMS, grandissimo teatrante, ha lavorato con Basaglia, insomma, esperienza. Ebbi una bellissima chiacchierata, incontro con lui, e mi era stato chiesto di scrivere questi brani per questa rappresentazione, e venne fuori Dove sono i poeti. E dormo sotto l'ala del tempo, felice in un corpo scontento. Chiedi dove sono i poeti, svegliami. E vedi, riesco a stare in silenzio, mentre questo mondo mi uccide. Io qui la mia anima altrove, e dove vuoi. È strano, non li sento più, tutti questi piccoli insignificanti esseri che rendono un inferno vivere. Il sangue degli uomini sul cuore del mondo, il tempo dei sogni ormai è finito e non è arrivato mai. Lontano da qui. E dormo sotto l'ala del tempo, felice in un corpo scontento. Chiedi dove sono i poeti, e svegliami. E vedi, riesco a stare in silenzio mentre questo mondo mi uccide. Io qui la mia anima altrove. Dove vuoi? È strano, non mi sento più. Tutti questi piccoli insignificanti esseri che rendono un inferno vivere. Il sangue degli uomini sul cuore del mondo. Il tempo dei sogni ormai è finito e non è arrivato mai. Un testo molto importante, molto sentito da parte tua, è un pizzico anche stavolta secondo me di blues, c'era un pizzichino, sì, un pizzichino gli hai dato. Più che altro questo pezzo nasce con il pianoforte, con un'altra struttura, ma ovviamente c'è quella ritmica. Esattamente, quella ritmica che dà quella sensazione, sì, in ogni caso il testo era molto importante, si sentiva che partiva da dentro, un testo che partiva da dentro. Sì, sì, appunto, è stata una combinazione di cose, l'incontro con Giuliano, appunto la poesia, il pappagallo morto. No, ma sì, ci sono figure, tra l'altro Giuliano Scabbia è una figura mediamente conosciuta, ma non tanto, che invece secondo me è un... Giustamente dovrebbe bisogno di... Ma non per lui ha 73 anni personale. No, come le sue idee, il suo progetto. Esatto. Ed è... Non so, forse anche bello che ci siano queste cose racchiuse in qualche scrigno segreto della vita. Però ecco, la domanda dove sono i poeti è appunto dove li lasciamo in questo casino, in questa confusione. Ecco. Certo, questo album è significativo dire una cosa. Tu l'hai prodotto, ma con una certa cura meticolosa, certosina, hai lasciato niente al caso. È tutto predisposto in una certa maniera, non freddo, chiaramente, ripeto, però una certa maniera, non è tutto a posto, tutto perfettamente. Perché il lavoro è stato lungo, non è stato complesso, probabilmente. Sì, forse è tempo anche di fare qualcosa di così un po' meno programmato. Nel senso, è vero che è un disco abbastanza ritmico, abbastanza metrico, quindi che necessitava... Sì, io lavoro un po' come si può fare nell'architettura, cioè? Nel senso, si può fare un palazzo dritto e squadrato, si può fare allo stesso modo cominciando a metterci delle cose sotto le finestre, delle persiane, insomma la costruzione di un brano è... per rendere appunto anche l'elettronica fluida e secondo me calda c'è bisogno anche di un lavoro di produzione anche più accurato. Ecco. Certo, e questo presentarsi con la performance multimediale ecocentrifugo, com'è questo discorso? Allora, è un po' difficile, un po' complesso, sì, o no? È complesso il fatto che non si trovino spazi dove poter esprimere quello che vuoi esprimere quello te. Che io avrei in testa completamente, quindi con diversi musicisti, una certa attenzione per il suono che purtroppo oggigiorno è difficile trovare, si va di fretta, non c'è spazio, si va di fretta, tutto quanto subito, eccetera. Esatto, c'è molta improvvisazione nella gestione degli spazi dal vivo, purtroppo la musica è diventata un soprammobile abbastanza polveroso, l'interesse è vendere la birra, quindi scusate se sono un po'... Ma in Olanda succede così? No. No, Però la strada non è molto promettente. Si tende purtroppo a peggiorare. Però insomma, noi in Olanda ancora è ancora distante il discorso. Diciamo che la trasmissione principale televisiva delle 8 di sera dà spazio sempre un minuto e mezzo a qualcosa di emergente. Quindi, insomma, la TV, bello questo. Questo già la dice lunga. però io ovviamente mi muovo, suono anche la mia performance da solo e a volte anche in acustico. Certo. Quindi cercando di rinunciare alla parte video e a un po' di elettronica, alla fine sono canzoni e come potete sentire stasera è possibile realizzarle in qualsiasi modo. Anzi, io non faccio differenza perché appunto sul disco è ovvio, si ha la possibilità di sentire il lavoro come si vede un film al cinema, la performance dal vivo è più paragonabile al teatro, quindi il teatro, una rappresentazione non è mai uguale, anche se fai la stessa cosa tutte le sere non sarà mai identica. Certo, e ognuno si fa la propria idea. Il concerto allora deve essere così, quindi io addirittura spesso mi trovo in delle situazioni in cui gli elementi che trovo sul palco, intorno, li uso per la performance, ecco. Quindi ovviamente il mio discorso, quello che ho preparato, i video, le canzoni, certe cose sì, devono essere presenti. Ok, benissimo. Come ti proponi appunto durante i tuoi concerti? Allora, ho appena fatto due cose qui in Italia, completamente da solo. Quindi solo chitarra e... Chitarra, ho il computer, una tastiera, ovviamente per fare un po' di elettronica, e i miei video a pararmi le spalle. E quindi ho fatto due performance acustiche, semiacustiche, ho suonato in acustico in caffè piccolissimi e ho suonato appunto con Vanessa, Rocco Brunori che è il trombettista del disco, grande trombettista, ha fatto un lavoro meraviglioso. Esatto, tra l'altro ha fatto quest'estate la tournée con la banda Bardot, non so se l'hanno chiamato dopo aver sentito il mio disco. no, è una persona in gamba, giovane, giovanissimo, tra l'altro lui studia al conservatorio di Amsterdam, quindi e veniamo della stessa zona, Firenze. Quindi è stato facilissimo, è stata una bella esperienza. Ha suonato con me, mi piacerebbe portarmelo a giro, purtroppo le risorse non sono tante, quindi però c'è anche quella possibilità. Quindi un concerto ideale sarebbe con tre elementi in più, ecco. Però vediamo, insomma. Però già l'idea che c'è, che si può allargare, trasformare, già tu hai un'idea di portare il trombettista in giro, e questa è una cosa positiva. Sì, no, infatti non rinuncio agli spazi dove posso proporre la mia musica, anche perché un po' a giro per l'Italia o in Europa. Ora, prossimamente, ma in Olanda, ho persone che mi seguono e che mi aspettano, quindi anche solamente per 5 persone alla volta vado volentieri. Quindi hai seminato giusto, secondo me. Sì, io al giro per l'Italia ho diverse persone che mi danno grandissime soddisfazioni, a volte mi mettono in imbarazzo, ho un pubblico molto, molto bello, piacevole. Certo, hai assimilato bene, perché Gianluca Marin, che ti ha ospitato qualche giorno fa, è stato molto soddisfatto della tua performance, quindi lo salutiamo. Un salutone a Gianluca, sì. Un salutone, è stata una bellissima mattinata. Sì, ti insieme. Facciamo riposare un po', vuoi? Bene. Ci ascoltiamo qualcosa dal disco? Benissimo. Cosa hai scelto? Ho scelto La cura del suono. Ah, perfetto. La cura prego rinchiuso nel mio monastero. Solo apparenza, solo rumore, la differenza devo imparare. Come si vive, come si muore, come si cura. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È già un'oretta se n'è andata in compagnia di Tenedle, il suo gran cassa. Questa è Blu Radio Veneto, come avete sentito anche nei jingles. Questa è la voce di Agostino, ma soprattutto c'è Maurizio Calzavara che sta cercando di conoscere, insomma, di scavare. Sto cercando di scavare all'interno del mondo musicale di, appunto, di questo artista toscano olandese. Esatto. Questo è un pezzo che giustamente tu hai detto dal microfono spento, ma era il singolo, adesso non si usano più i singoli, il pezzo trainante dell'album, perché era interessante le voci che si sommano, si incastrano fra di loro. E tu dicevi, sempre al microfono fuori onda, che è girato a Barcellona, è girato in Lussemburgo, ne parliamo di queste cose. Sì, Lussemburgo c'è stato in ottobre, prima che appunto fosse invitato per due bellissime performance. Hanno dall'estate fino a ottobre c'era la Radio Area, un bellissimo programma tra l'altro, che ha presentato ogni sabato La Cura del Suono. Bello. Il disco è stato disco del mese, La Cura del Suono è andato avanti per un sacco di tempo. E Barcellona è attualità, nel senso in un'altra trasmissione appunto della città ispanica c'è da qualche settimana viene messa in rotazione e anche lì infatti andrò a presentarlo dal vivo a maggio. Sì, come sei riuscito a buttare questi input, oppure come sono andate? No, devo dire che penso non viene da me, nel senso, ovviamente ci sono persone che mi sostengono l'etichetta, insomma, certo. La citiamo l'etichetta, esatto. Io faccio parte della New Model Label. L'editore Govind Kurana sta facendo un lavoro grandissimo, tra l'altro Davide è con me, certo. Quindi siamo anche colleghi di etichetta, appunto. Sta facendo un grandissimo lavoro la New Model Label, secondo me, a parte me, ha grandissimi artisti. No, però ecco, lui, insomma, stanno venendo fuori un sacco di cose interessanti e evidentemente lo dimostra il fatto che c'è un ritorno appunto a queste cose. Io sono stato contattato appunto da diverse situazioni molto belle che mi permettono di andare a giro appunto ora a maggio in Spagna. Quindi esportare il discorso è importante. Sì, adesso esportare, tu abiti in Olanda ma tu sei italiano, quindi esportare. Sì, dire sì, ma bene o male io sto in Olanda e continuo a fare a cantare la mia musica in italiano. Certo, certo. Quindi certo. Per il progetto Tenedle poi lasciamo stare il teatro eccetera, ma non ho spostato una virgola. Ovviamente non suono dappertutto, è ovvio che non ho tappeti rossi o non sono conosciutissimo, però mediamente suono quanto in Italia, se non di più, e suono in italiano, e la gente mi compra i dischi. Gli olandesi sono un popolo che conosce le lingue, quindi, però ecco, dove non conoscono le lingue spesso mi vengono a dire che comunque il suono della lingua italiana è bello. E infatti io questa cosa la voglio lanciare. Siamo in radio, certo. I miei colleghi che cantano in italiano a volte, o quelli che sono indecisi, l'italiano a parte si caratterizza e non è necessario che tutti sappiano cosa diciamo, però è veramente una lingua con un suono bellissimo. Cioè, è un po' difficile, dicono moltissimi cantanti, cantare in italiano. No, ma perché ma come? Siamo abituati ad ascoltare la musica inglese. Certo. Se ascoltassero i cantanti che dicono che è difficile la stessa quantità di musica cantata in italiano, io consiglio di cominciare dalle nozze di Figaro di Mozart con il libretto in mano e cominciare a sentire che bello è quel suono là, e via via insomma. È una delle lingue più belle per scrivere musica. Io ho scritto anche in inglese, ho scritto anche in olandese, però l'italiano ha proprio un bel suono, sentiamo veramente una bella lingua ricca. Senti, già che siamo in tema, sì. Se qualcuno, visto che stiamo parlando di contatti, di concerti, eccetera, diamo i tuoi contatti, sì. Se chi volesse chiamarti, insomma, per fare qualche live. Insomma. Sì, ho il sito internet www.tenedle.com. E, tra l'altro lì si possono acquistare i miei dischi, perché abbiamo deciso di non distribuirli in maniera classica, neanche in digitale. Sì, in digitale sì, ci sono su iTunes, ci sono tutti e tre i miei, escluso il primo, c'è Alter, Luminal e Grancassa, quindi iTunes e tutte le piattaforme. Ormai sta spopolando iTunes. Sì, ovviamente ci adeguiamo. Io bene o male scaricano la mia musica da Giappone, Australia, certo. E quindi fa piacere. È ovvio che il disco è la tua opera, nel senso sarebbe come dire a Michelangelo, però la statuetta o l'originale, però ecco, sarà contento di sapere che tanti comprano la statuetta, ecco. Sarebbe contento, perché appunto anche quando era vivo anche lui ha sofferto un bel po', certo, ma certo. È una condizione normale per gli artisti, non c'è problema. Però sì, il sito, la mail è info@tenedle.com, quindi da lì potete contattare, la ricevo io, la ricevono i miei manager o aiutanti o... più che altro, ecco, amici che ti dà una mano, si occupano di queste esattamente cose, sì. Poi anche dal punto di vista fisico, se uno vuole il disco fisicamente, vai ai tuoi concerti. Sì, ai miei concerti ci sono sempre i miei dischi, ovviamente, siccome girerò ancora fra poco per l'Italia, a giugno. A Napoli, probabilmente torno a Firenze, spero di tornare in queste zone in autunno. Bene. Quindi già i tuoi punti di riferimento precisi ci sono, praticamente. Sì, no, chi mi vuol trovare mi trova. Ecco, esatto, questo è importante. E se qualcuno ti volesse trovare musicalmente, cosa gli proponi adesso? Allora, esatto, andiamo... Allora, gli propongo di chiudere la televisione, il resto, mettersi in silenzio e andiamo ad ascoltare un brano che è un crossover tra la mia parte con il gruppo. Cioè, quando è un brano che ho scritto proprio nel periodo di transizione, quindi non avevo più il gruppo e cominciavo a fare il solista. Dopo anni ho scoperto che questa cosa non era male, quindi la suono spesso dal vivo. Si chiama Formiche. Blu Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. Spingo un'altalena senza alcuna volontà, lascio dondolare la mia testa vuota, l'erba dei propositi è cresciuta intorno a me. Sento il desiderio di non fare niente. Lingue di bovino ritoccate dal make-up posano per ore con il culo al vento. L'ombra è senza forma dietro un uomo che non c'è. Mi pento se ho cercato di cambiare il mondo e seguo una lunga fila di formiche. Nuvole che si evolvono mentre l'uomo va ancora in cerca dei suoi numeri. E da individualista il mio pensiero va al di là. Gira con la stessa sincronia, su case capovolte piove controverso, ma viste dallo spazio le città diventano fragili alveari e le persone. Sono piccoli insetti. Seguo una lunga fila di formiche, di nuvole che si evolvono mentre l'uomo va ancora in cerca dei suoi numeri. E da individualista il mio pensiero va al di là. Seguo una lunga fila di formiche, le nuvole che si evolvono mentre l'uomo va ancora in cerca dei suoi numeri. E da individualista il mio pensiero va al di là. Giustamente tu hai detto formiche non doveva rimanere nel cassetto, nell'oblio, e doveva essere tirata fuori. E sì, giustamente, quindi è stata tirata fuori. Molto bella, sì, questa canzone. Grazie, grazie. No, infatti sono quelle cose che maturano. E questa è nata in inglese, tra l'altro, una ventina di anni fa. E poi l'hai lasciata là? Sì, cioè, era il periodo in cui, come tante volte succede, la band si scioglie per vari motivi, certo. Sei giovane, non sai bene cosa fai e cosa continui a fare musica, ovviamente. Chiaro. Quindi in quel periodo tutti i brani che nascevano in quel momento erano un po' sacrificati perché non avevi progetti veri e propri. Poi in quegli anni io mi trasferivo in Olanda per la prima volta, sono stato 2 anni in quel periodo, e tra l'altro mi sono dedicato ad altre cose, dipingere, quindi tutti quei brani che in quel periodo venivano fuori rimanevano là. Qualche anno fa ho cominciato a suonare, a riprendere le cose. E questo è uno anche come parole è un brano, certo, che è attualissimo. E Alter del 2007, che differenza c'è tra Alter e Gran Cassa uscito l'anno scorso praticamente? Alter scritto e Alter è l'ultimo disco prima di Gran Cassa. Sì. Beh, tecnicamente a livello di produzione è un passo, Gran Cassa è il passo dopo, quindi un'esperienza maggiore. Sempre un miglioramento, sì, totale. Sì, Alter appunto si può dire anche servito a, a arrivare a gran cassa come, come sperimentazione. Alter è un disco ancora più sintetico, più un po' più notturno, si dice, beh, anche questo lo è, però ecco, il tema di Alter è proprio la notte, ed è un disco forse il ritorno dopo un periodo in cui il cantautorato prevaleva alle mie origini un pochino più... Quindi il filo dell'elettronica è più pesante, più... Sì, è un album di suoni più sintetici, però anche lì non c'è solo quello, ecco, non c'è solo quello. Ci sono brani appunto come L'ora di ricreazione, che se c'è tempo poi vi farò sentire, certo. L'unica stella, o che sono assolutamente... caldi, ecco. È un disco scritto in Italia con un sacco, ecco, le tematiche in quel periodo erano molto, io ho una figlia, era piccolina, ma insomma mi imbattevo spesso in articoli di giornali, era la mia prima figlia e stavo imparando a fare un po' il padre e mi imbattevo in articoli di giornali di adolescenti che insomma avevano problemi di tutti i tipi, anche drammatici, e nel disco ci sono alcuni riferimenti a quella generazione che è stata anche la mia ieri l'altro, la nostra, insomma, e quindi non è che è passato molto tempo da quando ci sentivamo un po' spaesati, ecco. Ogni generazione ovviamente ha i suoi drammi, è un periodo molto fragile. Cioè, quindi la musica è sempre lo specchio dell'anima in ogni caso, cosa dici? O può esserlo, insomma. Sì, la musica se non è lo specchio, certamente non è il pacchettino che ci confezionavano e che ancora confezionano per Sanremo. Purtroppo, sì, io devo parlare. Dovevo parlare dell'attualità, Sanremo. Esatto, l'attualità. Lo sappiamo, è il paradosso, ovviamente. Certo, perché certo. Poi tutto quello. La musica non è il pacchetto che ci confeziona, ormai la gente si è stancata, la musica è proprio una cosa dell'anima, è una delle discipline che io consiglio, io sono per la musica per tutti, per l'arte per tutti, perché anzi è proprio la salvezza, e secondo me tutte le discipline artistiche sono quelle che ti rendono pacifico e ti fanno realizzare interiormente, quindi non avere invidia e gelosie, certo, per gli altri, ecco. Si vede che porti avanti questo discorso anche mentre canti, perché tu entri proprio dentro la canzone, ti osservavo mentre suonavi poc'anzi, quasi soffri mentre canti, cioè la senti proprio dentro te, è una cosa tua, la devi dire in quella maniera là, la stai quasi soffrendo proprio, secondo me. Sì, mi capita spesso anche dal vivo di commuovermi perché ritornano alcuni flash dei momenti in cui ho scritto. Immagino. Certe cose, no, io non sono esageratamente autobiografico, spesso non lo sono per niente, però ci sono anche, ovviamente non soffri soltanto per te stesso, anche per cose che hai visto e magari ti toccano relativamente, però... Quindi hai sofferto guardando Sanremo, allora? No, devo dire che non l'ho proprio... Non l'hai proprio visto? No, non ce l'ho fatto, non l'avrei fatto, non mi interessava proprio... Mi piacerebbe andarci perché è stato il palco di Tenco. Certo. Certo. Tanti artisti dicono, ma si giustificano insomma, vengono dalla musica alternativa, sembra che debbano dare una giustificazione. È ovvio che il contesto di Sanremo è sbagliato da anni, però il palco di Sanremo, sì, ha visto la storia della musica. Io andrei a respirare, a pestare quel palco perché c'è stato Luigi Tenco. Certo, certo. E quindi è ovvio, non mi inviteranno mai, perché ovviamente non andrei a fare una cavolata, però dovremmo riprendere, certo, quel palco. Tu hai detto una cosa giusta, il palco di Luigi Tenco, perché Luigi Tenco era alternativo, ciao d'amore ciao, non è, esatto, Luigi Tenco, Luigi Tenco ha scritto tante altre cose prima di ciao d'amore, sì, ciao, sì, sì. Sì, infatti era il terminale ciao d'amore ciao, esatto, quella è una storia molto bella, tra l'altro c'è un libro bellissimo su Piero Ciampi, sì, però in cui c'è questa scena sulla spiaggia, su una spiaggia che non era, mi sembra a Roma, o in cui c'è Lucio Dalla, Piero Ciampi e Luigi Tenco che discutono sull'opportunità o meno di andare a Sanremo. E Luigi Tank, ora lo chiamo così come se lo conoscessi, dice proprio la differenza di opinioni. Ciampi gli dice no, non devi andare a questi, insomma, ovviamente Ciampi era un alternativo, sì, al massimo, per eccellenza, esattamente. Però diceva no, la dignità del musicista, no? E Luigi dice no, io scardino, voglio scardinare il sistema da dentro, esatto, da dentro, esatto. E allora però evidentemente questa cosa lo faceva soffrire, no? Poi non si sa come sia andata, esatto, a finire, perché adesso recentemente in Francia c'è stata, sì, una polemica sul suicidio presunto tale, tutte queste cose qua. Però l'importanza è quello che tu hai detto, giustamente, ribadire che ciao amore ciao è il terminale, cioè Luigi Tenco non è ciao amore ciao, Luigi Tenco ha fatto tante altre cose, anche alternative, ricordiamo che lui era vocalist dei primi di strano, ma yeah, l'ha scritta lui, perché all'epoca si usava, esatto, l'ha scritta lui, perché una volta si usava, dare i giovani talenti della RCA venivano messi dentro per dare una mano ai cantanti della RCA, della hit, quindi al di là di questo era un grande. Comunque anche ciao amore ciao, che all'interno racconta il problema dell'emigrazione. Esattamente, esattamente. Cioè, voglio dire, è una maestria, perché lui si faceva il problema di essere commerciale e intelligente, cioè scardinare, ma l'ha fatto soltanto la dimensione intorno non gli concedeva di capirlo. Esatto, e questo è un po' la sofferenza degli artisti. Comunque ci andresti, insomma, Salem. Ma sì, perché no? Se mi fanno fare quello che voglio. Non è che sei per caso un po' egocentrico? Sono egocentrifugo, ma non sono il vostro caso clinico. Spaventa se ti tolgono i vestiti e non hai niente dietro cui nasconderti. Dopo due secondi appena puoi sentirti un altro e la tua scena nudo puoi goderti. Sono egocentrifugo, ma non sono il vostro caso clinico. Sono un dinosauro, ma non mi sono mai estinto. Cosa non mi diverte che sei pronto a rinnegare nel terrore le migliori idee che hai. Storia e scienza fanno luce, ma purtroppo l'evidenza dice l'uomo non impara mai. Egocentrifugo, ma non sono il vostro caso clinico. Sono un dinosauro, ma non sono, perché splendida creatura agli occhi di sua madre. Distruggete la cultura, è fragile. Cosa ti riserva questo tempo senza amore, se non riesci a lacrimare sangue? Cosa ti rimane quando sfondi la gran cassa e il cuore esplode? Esplode. Sono egocentrifugo, ma non sono il vostro caso clinico. Sono un dinosauro, ma non sono, perché splendida creatura agli occhi di sua madre, vi prego, distruggete la cultura, è fragile. Scrivo tutto ciò di cui ha bisogno, è facile. Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, Tenedele, citiamo i musicisti che hanno partecipato. Abbiamo sentito la tromba di Rocco qua, tromba che si confluisce nell'elettronica, un'elettronica però molto blanda, molto molto gioviale, molto accattivante. Sì, sì, sì, c'è ovviamente c'è la tromba e che poi c'è un eco che, che la ripete. Esattamente, si inserisce nell'elettronica, sì, sì, sì. È una tromba strana. Sì, sì. La tromba alla Tenedele di Rocco Brunori, ecco, e in questo caso anche di Manolo Nardi, che mi piace citare perché ha lavorato con me prevalentemente dal vivo gli anni precedenti, in Alter, con Alter e Luminal, abbiamo fatto diversi concerti insieme. Poi niente, Silvia Vavolo, cantautrice fiorentina, amica, per le voci di La cura del suono, Lo stato in cui mi cerco. Meridi, cantante, cantautrice di Trieste, per altri due brani, Vanessa Tagliabue York, l'abbiamo già citata, certo. Dino Giusti che ha suonato con me qualche anno fa e ha partecipato in La spiaggia alla chitarra, niente. E la voce di Giuliano Scabia in un brano che ci ricorda che ogni persona ha un bosco dentro pieno di figure dell'anima. E Tenedele che ha tirato tutte le fila. Sì, tu hai tirato tutte le file di queste cose. Sì, no, ma più che altro in senso positivo, sono gli altri che mi hanno regalato hanno dato una marcia in più al disco, perché io avevo preparato il disco, ma il loro apporto è stato bellissimo. Insomma, secondo me la qualità del disco è salita molto. C'è un apporto però positivo, nel senso non hanno premuto, non hanno praticamente cambiato le coordinate. Tutto delicatamente. Esatto, tutto delicatamente. Sì, anche perché c'è ovviamente un feeling, insomma, bello, un apporto molto molto positivo. Cosa ascolta Tenedele quando è da solo? Allora, ho citato Luigi Tenco. Lo ascolti? Sì, Luigi Tenco, Piero Ciampi. Per quanto riguarda musica italiana, vabbè, Battiato, Battisti, Ivan Graziani, mi dimenticherò sicuramente qualcuno. E se dovessi andare nella famosa isola deserta, cosa ti porti? Un sacco di roba. Un sacco di tre solo. Il flauto magico di Mozart, ecco. Sicuramente, perché c'è tutto lì, quasi. No, c'è tutto. Poi mi porto, orca miseria. Scusate. No, tre sono troppi pochi. Mi porto i Beatles di sicuro, però dico una banalità, perché ormai sono diventati un classico, musica classica quella. Quasi tutti gli artisti li portano. Sì, è ovvio. Infatti non ho detto niente di particolare. Ma mi piace Nick Drake, mi piacciono i Kraftwerk. Nick Drake ti piace? Mi piacciono cose completamente diverse, perché la musica veramente ha questa potenza. Poi spesso mi piacciono gli artisti per cui quando ascolti qualcosa si sente già che c'è qualcosa dietro, ecco, che c'è sincerità, sofferenza, ecco, ho bisogno di sentire la sofferenza, anche quando fanno ridere le persone, i comici, il comico che veramente riesce a far ridere è perché conosce la sofferenza. Qualcuno ha scritto che ti lontanamente c'è qualche attinenza, ma molto lontana, con i Depeche Mode. No, cosa no, non lontano. Non lontano, io, presente, è vicina. È stata una delle band che mi ha influenzato. Ti ha influenzato di più. Quando avevo... Ah, eccoli, eccoli. The Model. Eccoli. Esatto. Sì, sì, no, Depeche Mode, secondo me, ancora, è stato uno dei gruppi che è riuscito, facendo una musica e un loro genere, sì, un loro stile, assolutamente, è riuscito a andare in barba a tutte le regole e a creare atmosfere, situazioni nel pop, nella musica leggera, certo, certo. Molto belle, melodicamente molto più che inglesi, ecco. Sì, esattamente, hanno scardinato, hanno avuto un successo incredibile, però all'inizio anche loro avevano fatto un progetto. Sì, rispetto a tanta musica degli anni Ottanta, che a me non piaceva, devo dire, ora c'è tutto sto revival, certo, ma a me ne piaceva poca, i Depeche Mode utilizzavano quegli strumenti nuovi in maniera molto intelligente, molto raffinata, ecco. E tu che usi la chitarra adesso, che strumento, che canzone ci io fa la faccio chitarra? Faccio il mio pezzo per Sanremo. Ecco, sì. Perfetto. Per quello del 2012, del 13 praticamente. No, è un pezzo di Alter, è un brano da Alter, è l'ora di ricreazione. È un brano scritto in reazione a un'intervista fatta in Olanda, dove venne riportato da un giornalista una frase sbagliata, nel senso, succede, niente, certo, di male. Si parlava di canzoni d'amore, io dissi, ma io canzoni d'amore non le scrivo così alla leggera, perché è difficile fare di una persona o dell'amore con una canzone, ci vuole grandissima meditazione. E lui scrisse che io non scrivevo d'amore, insomma, molto sommario. Un po' per rabbia, un po' per sfida, per divertimento, dissi, voglio provare a scrivere una canzone d'amore. Gli hai risposto praticamente. Gli ho risposto con una canzone sull'amore fisico, che comunque va insieme, necessita di un'armonia, di un'intesa particolare. Okay. L'ora di ricreazione. E non c'è più limite ai tuoi sogni, il mondo ai nostri piedi. Vita si immagina mentre la realtà inventa favole e piove forte ciò che aveva senso e niente. Puoi disimparare tutto ed imparare nuovamente. Se ti senti strana è solo un bene, solo un'endorfina. E se ti vengono i brividi quando ripensi a noi due e alle distanze impossibili che ci dividono, un colpo e si apre in silenzio la porta del corpo e si sente il rumore del sangue. Estetica e fisica sono leggi, ma questo è un altro mondo. Tanto la chimica ci solleva oltre le nuvole. Se so in assenza di forza, di gravità, con il corpo e con la mente, con estrema dedizione, niente che sia urgente fare, è ora di ricreazione. E se ti vengono i brividi e quando ripensi a noi due e alle distanze impossibili che ci dividono, un colpo e si apre in silenzio la porta del corpo e si sente il rumore del sangue. Che Che bella questa ballata. Molto bella, molto bella. Grazie. Una risposta a un giornalista olandese, ma risposta così. Cioè, figuriamoci, non è niente di polemico. È certo, divertente certo. Perché poi comunque è un po' così. Tutte le persone che incontri nella tua strada musicale ti stimolano. Ecco, una critica... Io adoro le critiche perché comunque quando ovviamente sono costruttive perché sono quelle che ti muovono, ecco, i complimenti sì, fa un piacere, certo, ma la critica certo. Quindi ogni stuzzichino che troviamo per la strada è importante. Abbiamo finito. Sì, è arrivato Renato. Che è arrivato Renato e poi proseguirà con quella cavalcata di musica rock. Esatto. Duro, heavy metal, heavy un metal. Po' di tutto. Bene, bene. Quando stiamo bene il tempo va veloce. Certo. Infatti. Allora, grazie a Dimitri in arte Tenedre. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Con cosa terminiamo? Un altro pezzo live e concludiamo in bellezza. Ok, facciamo Ascensore per lunatici? Sì, sì, ok. Allora, una pillola. Allora, grazie, dicevo, al Tenedre di aver partecipato a questa serata. Grazie dell'invito. Grazie a voi, un salutone ovviamente. Veramente. Ti aspettiamo per il prossimo disco. Volentieri, tornerò di sicuro perché Padova è bellissima, veramente. Una bella quindi città. Sai che ti aspettiamo. E voi siete eccezionali. Maurizio, io do l'appuntamento a giovedì. Sì, esattamente, giovedì con te. E avremo una cantautrice. Francesca Romana Perrotta. Esattamente, giovedì alle 21 alle 22.30 e domani sera sì, avremo invece... Marco Borgato dalle 22 alle 24. Che con chi? Con un gruppo di Solesino, quindi un gruppo padovano. Ah, qui vicino. Qui vicino, esattamente. Buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto con Renato e la sua musica heavy metal e ci ascoltiamo l'ultima canzone per quanto riguarda Tenedre che si intitola Ascensore per lunatici. Ciao ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. Sola senza luce, già perdendo la tua strada, perché sei un uomo fragile che il tempo sbriciola. Tu una donna stanca e senza aureola. Riuscite a stare in equilibrio. Al posto delle lampadine. Questo non vuol dire avere smascherato Dio, possedere antenne non ti eleva più su, in sovrappeso in ascensori per lunatici. Misuriamo solo il nostro vuoto a perdere. Perderei.